ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imprenditore di Emma Lagerlof. Traduzione di Ada Maria Terziani. Detronizzato. Molto tempo prima di sposarsi con Anna, figlia di Erik di Falla, Lars Gunnarsson era capitato un giorno a un'asta. Era un'asta di povera gente, e probabilmente non c'era nessun oggetto allettante da offrire ai clienti, e infatti la vendita procedeva molto male. Quei poveretti avrebbero anche potuto aspettarsi di meglio, poiché era Jöns di Kisterud a far da banditore, il quale era un tale commediante che la gente era solita andare alle aste soltanto per poterlo ascoltare. Ma benché Jöns non facesse che tirar fuori tutte le sue solite arguzie, quella volta non c'era niente da fare per stimolare le offerte. Alla fine non trovò altro espediente che deporre la mazza, dichiarando di essere diventato talmente rauco da non poter più gridare. «Il signor deputato può cercare qualcun altro a far da banditore», disse a Carl Carlson di Strövik, che presiedeva all'incanto. «Io mi son già così sgolato per questi insensibili pupazzi che mi circondano, che dovrò andarmene a casa e starmene zitto per molte settimane prima di riacquistare la voce». Era una cosa seria per il deputato trovarsi senza banditore quando la maggior parte degli oggetti erano ancora invenduti. Non voleva perdere la reputazione con un'asta cattiva, ed era diventato di colpo così rauco da non riuscire neppure a sussurrare le parole. Emetteva solo un sibilo. «C'è forse qui qualcun altro che può bandire gli oggetti per un po', mentre Jöns si riposa?» chiese allora il deputato. Si guardò intorno nella folla senza grande speranza di trovare un aiuto. Ed ecco che si fece avanti Lars Gunnarsson, dicendo che era disposto a provare. Aveva l'aria così giovane a quel tempo che Carl Carlson rise di lui e disse di non potersi servire di ragazzi che non sapevano ancora leggere. Ma Lars rispose che sapeva anche scrivere e far di conto, e insistette con tale ardore che gli si affidasse la mazza che il deputato finì per cedere. «Vabbè, ti lasceremo provare un momento», concesse. «Tanto peggio di come è andata finora non può andare». Lars salì al posto di Jöns di Kisterud, prese in mano un vecchio mastello da burro per bandirlo, ma invece si trattenne e per un po' si limitò ad osservarlo. Lo girò e lo rigirò da ogni parte, picchiò con le nocche sul fondo e sui lati. Parve stupito di non trovarvi il mio minimo difetto. E infine lo bandì con un tono desolato, come se gli dispiacesse di essere costretto a dar via un oggetto di tal valore. Era evidente che personalmente avrebbe preferito che non venisse fatta nessuna offerta. A suo giudizio era meglio per il proprietario se nessuno capiva quanto fosse eccellente quel mastello da burro. Così se lo poteva tenere. E ora che fioccava un'offerta dopo l'altra, era facile vedere quanto gli spiacesse. Passi pure, finché le offerte erano così basse che non aveva bisogno di prestarvi attenzione. Ma man mano che salivano, il suo viso si alterava dal disappunto. Fu un duro sacrificio per Lars doversi alla fine rassegnare a dar via quel vecchio ma ridotto mastello da burro. Poi fu la volta dei secchi per l'acqua, tini e tinozze. Lars Gunnarsson si mostrò ancora abbastanza accomodante quando si trattò dei più vecchi e li diede via senza troppi sospiri. Ma gli altri, i più nuovi, non voleva addirittura bandirli. «Sono troppo buoni», diceva il proprietario. «Sono usati così poco che potreste venderli come nuovi. Li potreste vendere al mercato». Presenti all'asta non sapevano bene loro stessi come mai, ma presero a gridare con crescente eccitazione. Lars Gunnarsson mostrava una tale angoscia a ogni nuova offerta che non era certo per fargli piacere che volevano comprare, ma in qualche modo si erano resi conto che c'era un vero valore in quel che Lars bandiva. Capivano che di questa o di quell'altra cosa potevano aver bisogno a casa loro. Qui si facevano dei veri affari. Non compravano più solo perché si divertivano, come quando era banditore Jan Kisterud. Dopo questa prova magistrale, Lars Gunnarsson fu continuamente richiesto come banditore. Non ci si divertiva più così tanto alle aste, da quando era lui ad impugnare la mazza. ma non c'era nessuno che avesse la sua capacità di far desiderare alla gente qualche inutile rottame, o di spingere dei vecchi ricconi a battersi per oggetti di cui non avevano nessun bisogno soltanto per dimostrare che potevano permetterseli. Lars Gunnarsson riusciva in genere a vendere tutto da cima a fondo alle aste in cui si presentava. Una sola volta stava per andargli male, e fu all'asta di Sven Östberg di Storstuga, a Bervik, quando era già padrone di Falla e aveva avuto a che dire con Jan di Skrolika. Questa volta era una splendida eredità da mettere all'incanto, e si era ravanata molta gente. E benché fosse autunno inoltrato, il tempo era così bello che l'asta poteva aver luogo all'aperto. Nonostante tutto ciò, la vendita andava male. Lars non riusciva a risvegliare l'interesse della gente ai bandi e a spingerla a fare offerte. Sembrava non dovesse andargli meglio di come era andata Jöns di Kisterud quel giorno in cui, per la prima volta, aveva dovuto prendere il suo posto. Ma Lars Gunnarsson non aveva nessuna voglia di lasciare l'incarico a qualcun altro. Cercò invece di scoprire quale potesse essere la ragione per cui la gente era così distratta e non voleva fare acquisti. E non ci mise molto a trovarla. Lars si era messo in piedi su un tavolo, perché tutti potessero vedere bene ciò che bandiva. E da quella posizione non gli fu difficile accorgersi che il neo imperatore, che abitava nella casetta contigua a Falla e lì aveva lavorato a giornata per tutta la vita, si aggirava tra la folla. Lars lo vide salutare a destra e a sinistra con graziosi sorrisi, lasciando che la gente ammirasse il prezioso bastone e le stelle. Una lunga fila di bambini e ragazzi gli stava alle calcagna ovunque si volgesse, ma nemmeno le persone di una certa età si mostravano così contegnose da non scambiare qualche parola con lui. Non c'era da meravigliarsi che l'asta andasse a vuoto quando c'era un tale personaggio ad accentrare l'attenzione. Lars, in un primo momento, non si interruppe. Si limitò soltanto a seguire con gli occhi Jan di Skrolika, finché questi non riuscì a farsi strada fino alla prima fila proprio accanto al banditore. Non c'era timore che Johannes di Portugalia si fermasse in un punto poco in vista. Stringeva la mano a tutti quelli che conosceva e rivolgeva loro qualche parola affabile, ma intanto si faceva avanti. Si faceva avanti in modo da trovarsi in breve al centro del cerchio. Nell'attimo stesso in cui vi giunse, Lars Gunnarsson balzò giù dal tavolo, si precipitò su di lui, si impadronì del berretto di cuoio e del bastone imperiale e fu di nuovo sul tavolo, prima ancora che Jan avesse il tempo di pensare e di opporgli resistenza. Jan gli lanciò un grido e voleva avventarsi sul tavolo per riprendere i tesori rubati, ma Lars gli brandì contro il bastone. Jan gli lanciò un grido e voleva avventarsi sul tavolo per riprendere i tesori rubati, ma Lars gli brandì contro il bastone, costringendolo a retrocedere. Un mormorio di indignazione si levò allora tra la folla, ma Lars non si lasciò intimidire. «Capisco che siate stupiti di vedermi agire così», gridò con la sua forte voce di banditore che risuonò per tutto il cortile. «Ma questo berretto e questo bastone appartengono a noi di Falla. Erano di mio suocero, Erik Ersa. Li aveva ereditati dal vecchio padrone proprietario della fattoria prima di lui. Questi oggetti sono sempre stati tenuti in grande onore a casa nostra, e io non posso permettere che ti giro un pazzo. Non so dirvi come li abbia avuti, ma so che non accadrà più che Jan di Skrolika vada a spasso facendosi bello di quel che è nostro». Jan si era rapidamente calmato, e mentre Lars teneva il suo discorso se ne stava a braccia incrociate con un'espressione di totale indifferenza in volto, come se non desse alcun peso alle chiacchiere di Lars. Appena questi tacque, Jan si volse ai presenti con un gesto imperioso. «Ora, miei buoni cortigiani», disse, «ora dovete farmi riavere i miei beni». Ma non uno si mosse in suo aiuto. Anzi, ce ne furono anche molti che risero di lui. Erano passati tutti dalla parte di Lars. Una sola persona si impietosì, e si udì una voce di donna nella folla gridare al banditore: «Su, Lars! Lasciategli ritenere quei gingilli imperiali. Tanto voi non potete adoperare né il bastone né il berretto. Gli darò uno dei miei berretti appena torno a casa», disse Lars. «Ma che il diavolo mi prenda se lo lascerò più andare in giro con questi tesori ereditati facendone uno zimbello». Seguì una sonora risata della folla a questa espressione, e Jan ne fu così turbato che non poté che restare lì fermo a guardarsi intorno. Si volgeva dall'uno all'altro e non poteva liberarsi del suo stupore. Ma come? Non c'era nessuno di quelli che ti avevano riferito e onorato che volessero aiutarlo ora. Proprio ora, nel momento del bisogno. Nessuno si muoveva. Capì di non contare nulla per loro e che nulla avrebbero fatto per lui. Ne fu così atterrito che tutta la dignità imperiale l'abbandonò e rimase lì come un bambino. Come un bambino che sta per scoppiare a piangere perché ha perduto i suoi giocattoli. Lars Gunnarsson si volse verso il gran cumulo di mercanzie accatastato al suo lato con l'intenzione di riprendere la vendita. Jan fece allora un tentativo di difendersi da sé. Con gemiti e lamenti si avvicinò al tavolo dove stava Lars e si chinò di colpo, cercando di farlo ribaltare. Ma Lars non si lasciò sorprendere. Vibrando il bastone imperiale, diede un colpo così forte sulla schiena di Jan da costringerlo a tirarsi indietro. «No, caro mio, no!» disse Lars. «Per il momento me le tengo io queste cose. E adesso mi pare che hai buttato via abbastanza tempo a fare l'imperatore. Sarà meglio per te che te ne torni a casa e ti rimetti a scavare. Quelli come te non ha niente da fare alle aste!» Non sembrava che Jan avesse una gran voglia di ubbidire. Ma Lars brandì di nuovo il bastone e non occorse altro perché per l'imperatore di Britpolare facesse dietro front e fuggisse. Nessuno si mosse per seguirlo o per dirgli una parola di conforto. Nessuno lo richiamò indietro. Anzi, i più non poterono fare a meno di scoppiare a ridere al vedere in che maniera penosa e così priva di dignità fosse finita tutta la sua grandezza. Ma neanche questo era nei gusti di Lars Gunnarsson, che alle sue aste esigeva altrettanta solennità che in chiesa. «Credo sia meglio parlare seriamente a Jan che ridere di lui», disse. «Ve ne sono molti fra di voi che danno corda alle sue pazzie e lo chiamano perfino imperatore, ma questo non è agir bene nei suoi confronti. È meglio cercare di fargli capire chi è, anche se può non essergli gradito. Sono stato suo padrone abbastanza lungo da ritenere che tocchi a me far sì che ricominci a lavorare, altrimenti dovrà presto vivere a carico del comune». Dopodiché Lars tenne un'asta veramente grandiosa, con fitte offerte e prezzi alti. E la soddisfazione che provò non fu minore quando il giorno dopo, tornato a casa, seppe che Jan di Skrolika era comparso vestito da lavoro e si era rimesso a scavare maggese. «E così non dovremmo più preoccuparci della sua pazzia», disse Lars Gunnarsson, «visto che forse gli è rimasta ancora la ragione. E ne ha sempre avuto così poca che sarà meglio che se la tenga tutta». Ignazio Oliva ha letto L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.